Anche dopo la morte di Ehud, gli israeliti continuarono a compiere ciò che è male agli occhi del Signore, il quale li abbandonò nelle mani di Jabin, un re cananeo che regnava in Hazor, e in quelle del comandante del suo esercito, che si chiamava Sisara, e risiedeva a Caroset Goim. Gli israeliti alzarono allora il loro grido al Signore, perché Jabin, che aveva 900 carri da guerra di ferro, li opprimeva duramente da 20 anni. C'era Debora, una profetessa, moglie di Lappidot, la quale in quel tempo era giudice in Israele. Se ne stava seduta sotto la palma che porta il suo nome, tra Rama e Betel, nella montagna di Efraim, e gli israeliti salivano a lei quando avevano bisogno di un giudizio. Un giorno essa mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, a Chedes di Neftali, e gli disse: «Il Signore, Dio di Israele, ti ordina di andare ad arruolare sul monte Tabor 10.000 uomini delle tribù di Neftali e di Zabulon, e di portarli con te. Dice che condurrà davanti a te, al fiume Chison, Sisara, comandante dell'esercito di Jabin, con i suoi carri e le sue truppe, e li darà nelle tue mani». Barak le disse: «Se verrai con me, ci andrò, ma se tu non verrai con me, io non mi muoverò». Rispose Debora: «Vengo senz'altro, solo che la gloria dell'impresa alla quale ti accingi non sarà tua, perché il Signore darà Sisara nelle mani di una donna». Poi Debora si mosse e andò a Chedes con Barak. Barak, radunata in Chedes la gente di Zabulon e di Neftali, mosse alla testa di 10.000 uomini, e Debora andò con lui. Eber il Chenita si era separato dai Cheniti, discendenti da Obab, suocero di Mosè. Così era arrivato a porre la sua tenda alla quercia di Saanaim, che è vicino a Chedes. Quando Sisara seppe che Barak, figlio di Abinoam, era giunto sul monte Tabor, radunò tutti i suoi carri da guerra, 900 carri di ferro, e tutti i suoi uomini, e li guidò da Caroset Goim al torrente Chison. Disse allora Debora a Barak: «Avanti, che questo è il giorno in cui il Signore darà Sisara nelle tue mani, egli marcia davanti a te». Barak scese dal monte Tabor e i suoi 10.000 uomini lo seguirono. Allora il Signore gettò nel terrore e travolse Sisara, tutti i suoi carri e tutto il suo esercito, che fu massacrato davanti a Barak. Sisara scese dal carro e continuò la sua fuga a piedi. Barak inseguì i carri da guerra e la fanteria fino a Caroset Goim. Tutto l'esercito di Sisara fu passato a fil di spada e non si salvò nessuno. Fuggendo a piedi, Sisara si diresse alla tenda di Giaele, moglie di Eber il Chenita, perché c'era pace tra Jabin, re di Hazor, e la casa di Eber il Chenita. Giaele uscì incontro a Sisara e gli disse: «Vieni, signore, vieni da me e non temere». Questi entrò nella tenda di Giaele, che gli offrì di nasconderlo sotto un grosso panno. Sisara, intanto, chiedeva di dargli da bere un po' d'acqua, perché aveva sete, ed essa, aperto l'otre del latte, lo fece bere e lo coprì. Sisara le disse: «Mettiti alla porta della tenda, e se qualcuno verrà a domandarti se qui c'è un uomo, rispondi di no». Ma Giaele, moglie di Eber, prese un piolo della tenda e, impugnato il martello, rientrò piano piano dove giaceva Sisara. Gli piantò nella tempia il piolo, che si conficcò nel suolo. Su Sisara, che si era addormentato profondamente, calarono le tenebre e morì. Ed ecco giungere Barak all'inseguimento di Sisara. Giaele gli uscì incontro e gli disse: «Vieni, che ti faccio vedere l'uomo che stai cercando». Egli entrò nella tenda della donna e vide Sisara, che giaceva morto, col piolo conficcato nelle tempie. Quel giorno Dio umiliò il re cananeo Jabin davanti agli israeliti. La loro mano si fece sempre più pesante sopra di lui, finché non lo annientarono del tutto.